get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte. Questa è la nostra 101esima trasmissione. Qui in studio siamo io, Caterina, e con me c'è Rosina. Tutte e due con un fortissimo mal di testa, per cui vi preghiamo, consolateci con i ormai consueti trillini, fateci sentire che ci siete. Dice Rosina, non troppo, chiaramente, perché il mal di testa è grosso, quindi non ci abbuffate. Un discreto viene gradito. Dunque, questa puntata sarà una puntata monotematica. Ricordo che questa organizzazione che ci siamo date ci permette di approfondire di volta in volta argomenti che catturano il nostro interesse o che riteniamo sia giusto discutere insieme. Insieme significa chiaramente che tutte le donne possono proporre argomenti o intervenire sui nostri. Il mezzo più rapido per contattarci è quello di utilizzare la nostra email, che è, ricordo, contatti@clrbp.it. Dunque, dicevo che questa trasmissione è monotematica e l'argomento che tratteremo oggi sarà il lesbismo. Guarda un po', però mi raccomando, non vi spaventate, non abbiamo voglia di fare un tema dal titolo il lesbismo, questo sconosciuto, due punti a capo, svolgimento, e lisciorinare tutta una serie di definizioni, né abbiamo voglia tantomeno di riassumere in 10 punti salienti le linee guida del lesbismo. Niente di tutto questo, chiaramente. Soprattutto perché noi del CLR siamo convinte che non esistano dei criteri fondamentali in base ai quali puoi essere identificata e riconosciuta come lesbica. L'unico requisito che accomuna tutte le lesbiche è, chiaramente, l'amare una donna. Per il resto ci sono ed esistono 7 miliardi di sfaccettature e diversità. Diciamo che oggi affrontiamo il tema del lesbismo mettendolo in relazione al matrimonio e quindi a tutto ciò che ne consegue, dalle unioni di fatto ai diritti civili, dal bisogno di famiglia alle regolamentazioni giuridiche, eccetera, eccetera. Per fare tutto questo abbiamo preso spunto da una serie di trasmissioni televisive che nei giorni passati sono andate in onda un po' su tutte le reti nazionali e che ci hanno convinto che far emergere il nostro punto di vista forse è il caso, beh, visto che lo facevano tutti, ci sembrava veramente opportuno dire la nostra. Prenderemo spunto anche dalle dichiarazioni del Papa a Montecitorio, da alcune riflessioni fatte da noi del CLR che da tempo, forse troppo, avevamo chiuso nel cassetto. Comunque sempre intervalleremo i nostri interventi con musica di donne e, quando è possibile, con musica di donne lesbiche. Daremo infine, se rimarrà il tempo oggi, una serie di notizie e appuntamenti. Bene, a questo punto mando subito un po' di musica e ascoltiamo insieme Leanne Rimes con il brano But I Do Love You. Too. Allora, buonasera a tutte. Dunque, Caterina ha già introdotto il nostro tema di questa sera. Chi ci ha seguito nella scorsa trasmissione saprà ovviamente che Annalisa e Pina hanno parlato di matrimoni gay, di patti di solidarietà, unioni civili, insomma di quanto serve a regolare a livello istituzionale i rapporti affettivi fra persone dello stesso sesso. E come gruppo politico cominciamo a parlarne diversi anni fa, quando il dibattito politico istituzionale su questi argomenti era piuttosto diffuso e acceso, tanto che proprio i diritti civili divennero uno dei temi trattati nel nostro convegno sul ruolo politico delle lesbiche, che si chiamava Il mondo da fare, che si tenne appunto al Buon Pastore nel 1997. E in questi anni più o meno periodicamente il tema è tornato alla ribalta, riaffacciandosi su internet, sui giornali, in televisione, insomma, convegni, talk show, e di volta in volta ha sollevato cori di consensi o di disapprovazione, ilarità, commozione, insomma, talvolta generando addirittura fratture più o meno scomposte nei partiti politici che governino o si oppongano indifferentemente, così che per un perverso meccanismo di inversione certi componenti della destra omofobica e conservatrice hanno assunto un ruolo riformista ed avanzato rispetto invece a certi altri esponenti di sinistra che si sono rivelati codini e moderati. D'altro canto, questo è un argomento di quelli che scottano, non tanto ovviamente da fare saltare le alleanze pur fragili a cui ci hanno abituati i signori e le poche signore della politica italiana, però sufficiente ad aprire un problema di ordine morale ed etico da un lato e un vero problema costituzionale dall'altro sulla uguaglianza certa o presunta fra i cittadini di una stessa Repubblica. Naturalmente attorno a questo problema deve necessariamente nascere un dibattito di tipo giuridico e culturale che preveda la revisione o la riqualificazione di leggi già esistenti oppure la emanazione di nuovi strumenti legali ed amministrativi, questo perché la legge per sua natura deve regolare le nuove situazioni e i nuovi rapporti che sorgono ed intercorrono fra i componenti della comunità. A questo proposito, in merito alle unioni civili, l'Europa si è regolata in differenti modi. Se in alcuni paesi il matrimonio gay è già una prassi, in altri invece viene riconosciuto il patto di convivenza fra coppie di fatto dello stesso sesso. Vi leggeremo quindi una piccola scheda sulle normative che in alcuni paesi regolano questo genere di unioni. Allora, in Danimarca già nel 1989 si è fatto un lavoro di questo tipo. Infatti la Danimarca è stato proprio il primo paese a riconoscere le unioni degli omosessuali e a dare loro il diritto di ufficializzare il rapporto con una cerimonia civile, e le coppie omosessuali godono degli stessi diritti in materia di alloggi, pensioni, immigrazione e addirittura adozione. Dopo la Danimarca e la Norvegia, che ha appunto recepito questa normativa nel 1993, anche il Parlamento svedese, quindi la Svezia, ha approvato nel 94, quindi l'anno successivo, la legge che regolarizza la convivenza tra omosessuali e che prevede parità di diritti e doveri con le coppie eterosessuali sposate. Dal 5 giugno scorso la Svezia è inoltre il primo paese al mondo dove le coppie gay registrate possono adottare bambini provenienti da altri paesi. L'Olanda, per quanto riguarda l'Olanda, una legge del 1998 permetteva la registrazione allo stato civile delle coppie omosessuali. Nel 2001 è entrata in vigore la nuova legge sulla famiglia che consente a gay e lesbiche di sposarsi civilmente e di adottare figli. Quello stesso giorno nel municipio di Amsterdam, parliamo del 1 aprile del 2001, per la prima volta al mondo quattro coppie di omosessuali, tre di uomini e una di donne, hanno detto il loro sì davanti al sindaco. Il 1 giugno scorso per la prima volta due uomini italiani si sono sposati civilmente all'Aia. Il Parlamento invece della Catalogna, quindi siamo in Spagna, ha approvato il 30 giugno del 98 la legge delle unioni stabili di coppia che pone le coppie gay giuridicamente quasi sullo stesso piano di quelle eterosessuali di fatto. Una legge analoga è stata approvata in Aragona nel 1999, mentre il 22 giugno del 2000 la Regione di Navarra ha equiparato a livello giuridico le coppie eterosessuali a quelle omosessuali. Il caso della Francia è eclatante, insomma c'è il patto civile di solidarietà ribattizzato matrimonio omosessuale, che è una legge approvata il 13 ottobre del 99, prevede l'inserimento nel codice civile di una definizione di concubinaggio che riguarda le coppie omosessuali. norme fiscali per consentire la denuncia dei redditi in comune, sconti sulla tassa di successione, facilitazioni per mantenere l'appartamento in affitto in caso di morte dell'intestatario, congedi in caso di eventi gravi al partner, insomma facilitazioni per la previdenza sociale. E questo tipo di contratto regola anche la fine del rapporto, come se fosse un divorzio, insomma. E per quanto riguarda il Regno Unito, sono più i riconoscimenti de facto che de jure, e quindi la legge britannica non riconosce alcun diritto alle coppie dello stesso sesso, però dal settembre scorso nel Comune di Roma è possibile inserire il proprio nome su un registro creato per formalizzare le unioni tra omosessuali. Alle coppie che scrivono il loro nome sul libro viene consegnato un certificato che però non ha nessun valore legale. Sembra un po' quando vai ai funerali che lasci non so, la firma sul registro. Delle presenze. La dea è stata qui, insomma, cose di questo genere. Dunque, invece in Germania il 10 novembre del 2000 il Bundestag ha approvato la legge sulla vita in comune tra omosessuali, paragonabile ai contratti di matrimonio o di concubinaggio. La legge, entrata in vigore il 1 agosto del 2001, prevede una serie di diritti e doveri per i coniugi, dal nome comune agli alimenti, dall'eredità alla previdenza, all'assicurazione, eccetera, eccetera, eccetera. Il 17 luglio di quest'anno la Corte Costituzionale ha stabilito che i matrimoni fra omosessuali sono legittimi e compatibili con la Costituzione. E in Belgio nel 2000 è entrata in vigore una legge del 98 addirittura che consente la registrazione legale delle unioni anche fra gay e lesbiche. E a gennaio, il 30 gennaio scorso, il governo ha approvato il progetto di legge che intende stabilire attraverso il matrimonio l'uguaglianza di trattamento giuridico tra coppie eterosessuali ed omosessuali. E adesso siamo in Italia, veniamo a noi. Non esiste ovviamente nessuna legge al riguardo, anche se alcuni comuni, fra cui Bologna, Firenze, Pisa, Ferrara, Voghera, Terni, a partire dal 97 hanno approvato l'istituzione del registro per le unioni civili. Inoltre l'Europarlamento il 5 luglio dello scorso anno si è pronunciato per il riconoscimento di pari diritti fra le coppie di fatto eterosessuali e gay, e siamo al 21 ottobre del 2002. Adesso vi facciamo ascoltare una canzoncina, però... Bonnie Wright, ecco, sì. mi comunica la regia Bonnie Wright, e la canzone si chiama You Got It, Puoi Farlo. One look from you, I Allora, fin qui abbiamo parlato con questa, abbiamo insomma messo a parte. Pardon. Caterina mi fa dei cenni per avvicinarmi al microfono. Allora, è il mal di testa, È il mal di testa che ci conturba. Allora, questa scheda appunto vi ha illustrato quale sia la situazione in alcuni paesi europei, però stasera non ci interessa parlare nello specifico della insomma della prospettiva giuridica istituzionale delle unioni civili. Invece ci interessa mettervi a parte insomma di quello che è stato il nostro pensiero negli anni. E per quanto insomma ci riguarda, la nostra linea è stata sempre più o meno contraria alla lotta per il diritto alle cosiddette unioni civili, e naturalmente questo ci mette in opposizione rispetto a quelle realtà politiche che invece ne hanno fatto e ne fanno un cavallo di battaglia. E pur riconoscendo a queste realtà la piena titolarità ovviamente di agire in questo senso, riteniamo comunque che questo tipo di lotta in qualche modo possa comportare un pericolo per una serie di acquisizioni che sono ormai proprie di certe lesbiche. Allora, innanzitutto il nostro rifiuto è motivato dal non riconoscimento sociale e giuridico dell'istituto matrimoniale, che viene preso a modello per la definizione degli aspetti amministrativi, giuridici e fiscali di queste unioni, e che quindi chiaramente riconduce anche queste ultime unioni ovviamente all'interno della logica eteropatriarcale. Come sosteneva l'afroamericana Audre Lorde, gli strumenti del padrone non abbatteranno mai la casa del padrone. Pertanto, se riconosciamo, così come in effetti è, il portato eversivo e dirompente della scelta lesbica, non possiamo accettare un riconoscimento che passa attraverso l'omologazione e che si avvale di uno strumento evidente di controllo quale il matrimonio. Inoltre, la logica istituzionale delle unioni civili crea una discriminazione fra le donne che sceglieranno di unirsi e quelle che non lo faranno, continuando a riproporsi come elementi di disturbo sociale. La nostra domanda è se siamo effettivamente certe che il diritto di accedere come lesbiche ad alcuni istituti giuridici ci garantisca una legittimazione all'esistenza in quanto lesbiche e non rappresenti invece una semplice regolamentazione e la riduzione della nostra esistenza alla non pericolosità sociale. A questo proposito ci sembra interessante citare il documento prodotto da Spinelli per il convegno del 1997, Il Mondo da Fare, in cui Spinelli appunto affermava che nel momento in cui lesbiche e gay propongono una mobilitazione per il riconoscimento dei diritti civili, è come se affermassero: noi riconosciamo questo specifico ordinamento giuridico come unico titolare all'elaborazione dei principi di libertà valevoli per tutti. I diritti cosiddetti civili corrispondono alla nostra concezione di convivenza sociale, al punto che deleghiamo alla legge di stabilire canoni relazionali entro i quali deve esprimersi la nostra sessualità. E ancora, l'ordinamento giuridico fonda sul pensiero elaborato da un mondo maschile che si assume come universale e assimila a sé tutto l'esistente. Non contempla diversità. Al massimo della sua espressione democratica inventa la parità, cioè la riduzione all'uno delle differenze. Titolare del diritto è un maschio bianco, fornito di cittadinanza, che parla la lingua della maggioranza e professa la religione e le opinioni politiche, e gode di condizioni personali e sociali che lo garantiscono. A partire da questo soggetto unico, i diritti sono concessi alle donne, ai bambini, alle minoranze, agli stranieri, ai diseredati, malgrado siano appunto differenti. Chiedere la legittimità del matrimonio sembrerebbe un modo per agire la lotta contro il potere precostituito e bigotto. Uno dei motivi per cui lo Stato e la Chiesa al momento non accettano questa possibilità è il rifiuto all'integrazione di lesbiche e gay nella società attuale. Ma per noi questa società attuale, ed in particolare il concetto di famiglia, è accettabile? E se è accettabile, che cosa motiva la nostra scelta sessuale? Riteniamo che cercare di ottenere leggi adeguate per le lesbiche sia una contraddizione, e che il miglior modo di destabilizzare è l'utilizzo degli strumenti già esistenti per dimostrare di essere soggetti di diritto e non chiederne di nuovi per essere meglio tollerate da un mondo di cui già facciamo parte. Infine, per quanto attiene agli elementi più specificamente inerenti alle problematiche sull'eredità, all'assegnazione di immobili, eccetera, queste potrebbero essere facilmente risolte in vita tramite cointestazione di capitali o immobili, oppure stipulando pensioni integrative con beneficiarie diverse dall'assicurata, che purtroppo, sebbene siano il simbolo di uno Stato conservatore, prima o poi ognuna di noi sarà costretta a sottoscrivere. Ai noi, purtroppo è così. E infine la necessità del matrimonio, oltre a sollevare lo Stato dall'assumersi responsabilità nei confronti dei soggetti deboli, per quanto attiene la sfera dei vantaggi, trae spunto dal presupposto che per essere soggetti di diritto è necessario rientrare nella tipologia della coppia, ciò che è assolutamente in opposizione con il pensiero fondamentale del femminismo e delle sue battaglie. E allora, queste sono le principali ragioni che ci pongono in opposizione critica rispetto alla questione delle unioni civili o al matrimonio omosessuale, che dir si voglia. E la norma eteropatriarcale definisce ogni forma di comportamento, il normale, il perverso, il diverso, funzionale alla definizione dei confini entro e fuori dei quali la norma stessa opera. Quindi è preferibile conservare, secondo noi, le caratteristiche di soggetto sociale eversivo, in quanto irriducibile, piuttosto che godere di presunte migliori condizioni di vivibilità, pagate con il consenso ad un ordine sociale che ci cancella e fa silenzio su di noi. E adesso Caterina mi farà la grande cortesia di mandare Melissa Etheridge. Con grande piacere, lo con sai. Con grande piacere, lo so che ti piace tanto. Volpetta. E la canzone si chiama I Take You With Me. Giusto? Sì. Detto bene? Benissimo. Perfetto. Meglio di me sicuramente. Vai così. Sì. Vado. Ok. Past the devil's own temptation, beyond where angels sleep, to the holy invocation of a neon city street. I feel your hand, I hold you. You and me. Ed eccoci di nuovo insieme, dunque torniamo a noi, torniamo all'argomento principale di questa trasmissione, che ricordo è la posizione del coordinamento lesbiche romane in relazione al matrimonio gay. Dunque devo ammettere che parlare di questi argomenti non è mai facile, si rischia di creare delle fratture profonde, come diceva giustamente Rosina prima, ma come sempre dico io, meglio chiarire che subire. Allora, più di una volta noi abbiamo detto che non siamo contro coloro che rivendicano il diritto al matrimonio. Non abbiamo nulla in contrario che si avanzino tali richieste da parte di chi ritiene questo aspetto un punto fondamentale per la propria esistenza. Pensiamo siano infatti del tutto legittime le lotte volte ad ottenere qualcosa in cui si crede. Allora dove sta il problema, direte voi, giusto? Infatti quello che avvertiamo sicuramente è la mancanza di confronto su queste tematiche. Cercherò ora con questo mio intervento di fare ancora più chiarezza sul nostro punto di vista, senza avere chiaramente la presunzione di essere esaustiva. Ciò che di seguito dirò è la posizione del coordinamento lesbiche romane rispetto alle rivendicazioni legate al matrimonio. La nostra posizione, non la posizione dell'intero movimento lesbico italiano, sia chiaro. Dunque, la cosa più eclatante che ci viene in mente, pensando al matrimonio o simili, ad esempio coppie di fatto, unioni civili e tutta quella sfilza di elenco lunghissimo che ha fatto Rosina prima, è che si prende in considerazione la coppia e non la persona. È come dire che sei autorizzata o autorizzato ad avere diritti solo ed esclusivamente se la tua condizione contingente è quella che ti lega ad un altro essere umano. Quello che a noi sembra evidente e che salta agli occhi è che un tipo di lotta così impostata ti porta inevitabilmente alla conclusione che se non stai in coppia praticamente non vali nulla. Non possiamo accettare una cosa simile. Se un diritto si concede è perché si ritiene che spetti a chi lo acquisisce, indipendentemente dalla sua condizione affettiva. Ma andiamo per ordine, perché questo problema ha più aspetti. Il primo punto che prenderemo in considerazione è l'obbligo di dimostrare che si è affidabili. Se pensiamo al registro delle unioni civili, adottato già dal 1997 dai comuni di Bologna, Firenze, Pisa, Ferrara, Terni e Voghera. Tutte le possibili agevolazioni che questa registrazione offrirebbe sono vincolate alla dimostrazione che il nostro amore non sia di serie B. In che modo? Si deve dimostrare che la convivenza già è attuata da un lasso di tempo considerevole, una sorta di rodaggio alla fine del quale si passa alla revisione, l'esame. Se ti sei comportata o comportato bene, rispondendo quindi a certi requisiti, ti puoi registrare, altrimenti, non so, continuerai a vivere nel peccato, non ho idea. Cosa, Rosina? Chissà se c'è anche la rottamazione. Chissà, bisognerebbe indagare di più. Infatti non mi risulta che per le coppie eterosessuali che decidono di stipulare un contratto matrimoniale si richieda altrettanto. Il secondo punto è quello legato a ciò che noi chiamiamo invece la necessità di omologazione. Dunque, nel corso degli anni molte lesbiche sono state convinte, e tra coloro c'è sicuramente la sottoscritta, che il permettersi di amare un soggetto dello stesso sesso sia una scelta per molti versi rivoluzionaria. In che senso rivoluzionaria? Andiamo a leggere sul vocabolario della lingua italiana quale significato ha questa parola, andando a vedere la definizione di ideali rivoluzionari. Dice testualmente che rinnova radicalmente. Ma voglio fare ancora di più e vado a leggere la parola rivoluzionare. Dice far insorgere contro un ordine sociale o politico, cambiare radicalmente, mutare un ordine. Bene, noi siamo assolutamente contro qualunque forma di violenza, quindi il nostro far insorgere contro un ordine sociale si esplicita nel far insorgere le coscienze, nel far capire che si può modificare un ordine dato se questo non ti corrisponde, nel rivendicare, e questa volta mi approprio anch'io di questo verbo, nel rivendicare, dicevo, il diritto di essere altro. Altro discorso è chiaramente quello legato al nostro bypassare su tutte le iniziative intraprese per la legittimazione della famiglia o del matrimonio. All'inizio dicevamo di vedere come legittime le battaglie fin qui intraprese. Il nostro atteggiamento è quello di chi, pur non condividendole, di certo non le ostacola. Non rientra nella nostra modalità e pratica politica quella di denigrare chi ha un'ideologia diversa dalla nostra. Non le critichiamo facendo una politica spicciola, semmai cerchiamo il confronto. Certo, non si può pretendere che vengano da noi appoggiate, anche perché se queste andassero in porto, lederebbero la nostra libertà di essere altro, la nostra rivendicazione di valorizzare la persona, la nostra volontà di modificare un ordine dato, il nostro impegno di realizzare un altro modo di esistere lontano dai canoni eterosessuali. Quanto detto poco fa ci introduce ad un aspetto per noi molto importante, quello legato al condizionamento culturale. Purtroppo ci vediamo costrette a constatare che si è un po' tutte colonizzate dal concetto di famiglia, colonizzate a tal punto che continuiamo a ragionare mantenendo come punto di riferimento proprio la famiglia. O ce l'hai o non ce l'hai, non ci sono altre possibilità di esistenza. Sarebbe utile, secondo noi, andare ad indagare perché la famiglia è quella cosa che, se ce l'hai, ti senti a posto e appagata, se non ce l'hai, ti senti incompleta e non realizzata. E questo è un discorso diverso dallo stare o non stare in coppia. È proprio l'istituzione famiglia che dovremmo analizzare, mettere in discussione, prendere in esame. Certo, abbiamo dei concorrenti di tutto rispetto da questo governo di destra che, ricordate, casa, lavoro e chiesa, beh, oggi non è molto, molto distante da allora, fino ad arrivare al Papa. Sì, al Papa, che in Parlamento ha ribadito che la famiglia è importante, anzi importantissima. Chiaramente la famiglia composta da un uomo e una donna, vuoi mettere? Del resto che cosa vogliamo? Anche la nostra Costituzione non è da meno. Ma non viene anche a voi la voglia di chiedervi come mai si sta arrivando ad un appiattimento così devastante? Come mai i valori si sono catalizzati su un'istituzione? Perché l'individualità conta meno di una condizione? È un problema culturale? Avere un punto di vista autonomo da questo centro, da questo punto focale, da questo perno, da questa convinzione, significa riuscire ad avere la distanza giusta per andare ad indagare quali sono le reali possibilità che la legge ci offre, quali si potrebbero cambiare, quali e cosa rivendicare, per esempio da chi farsi assistere in caso di bisogno. E questa è una reale possibilità. Andando da una notaia si ha la possibilità di scegliere da chi farsi assistere. Inoltre la legge sulla privacy stabilisce che ogni individuo ha la facoltà di scegliere chi può essere informato sulle proprie condizioni di salute e chi no. Ma qui casca l'asino. Entra in gioco e subentra, guarda caso, un problema culturale. Se ti senti male, la prima persona che si chiama è un familiare. Quindi la logica conseguenza è la convinzione che più di una regolamentazione giuridica farebbe il perpetrarsi di uno stato di fatto dove, ad esempio, molte lesbiche decidono di andare da una notaia e irrompono negli ospedali, nelle scuole, nei luoghi pubblici con il proprio essere altro, con la concretizzazione di un diritto di libera scelta. Questo farebbe sì che non venisse cercato necessariamente un familiare. Questo creerebbe la normalità dell'eccezione. Questo garantirebbe un diritto, più di una legge. Altro punto nodale è la pensione. A chi lasciare la pensione, o meglio, come fare a lasciare la propria pensione, sempre ammesso che ancora ce la diano. Ma hai tolto le parole di bocca. Anche in relazione alla constatazione che già si è sufficientemente penalizzate come single, non avendo nella maggior parte dei casi né ascendenti né discendenti diretti. Lo Stato incamera i nostri contributi e alla nostra dipartita se li tiene stretti. Con noi lo Stato ci guadagna due volte, togliendoci i contributi in vita e alla nostra morte non li rende reversibili in favore di altri. O altro, sto pensando per esempio alla possibilità, utopica mi rendo conto, di poter decidere di devolvere anche solo per un ristretto numero di anni la propria pensione, che ne so, al centro femminista separatista, a Radio Onda Rossa, ai bambini afghani, alla lotta contro i tumori, alla lotta contro i DS. In fondo sono soldi miei, perché non posso decidere a chi lasciarli? Perché? Ecco, per esempio, forse questa lotta ci vedrebbe in prima fila. E in caso di acquisti in comune, come tutelare l'altra? Non sono certo un'avvocata, ma penso basti andare da una notaia e fare un atto intestandosi a vicenda l'altra metà di proprietà. Sono talmente lontana dalla possibilità di conquistare, di acquistare qualcosa, che neanche la parola mi viene. Ti viene male, ti viene. Mamma mia! E come regolamentare poi la propria eredità? Anche qui, non avendo nella maggioranza dei casi ascendenti o discendenti diretti, forse penso che basti una notaia. Insomma, sicuramente tanto ci sarebbe da fare, però perché non sfruttare al meglio quello che oggi già si può ottenere? Ad esempio, a parte il problema della pensione che ci accomuna anche a tante altre persone che omosessuali non sono, perché non cominciamo ad invadere il mondo con la nostra presenza? Formiamo gruppi enormi di lesbiche che insieme vanno dalla notaia, ecco. Cominciamo a fare cose di questo tipo. Questa che vi ho appena enunciato è la posizione del coordinamento lesbiche romane, però sai Rosina, ora che ci rifletto, oui, mi viene da pensare, ma se il problema non fosse la stipula di un contratto il più possibile conveniente per entrambe le parti, se non fosse questo il problema, che significato può avere la ratifica di un vincolo amoroso da attuare necessariamente attraverso il matrimonio? Cosa si cerca in realtà? La legalizzazione del proprio amore o la giustificazione sociale? Tutto deve diventare riconoscibile, facilmente identificabile, utilizzando anche parametri decisi altrove. Riconoscibile e identificabile. Ma agli occhi di chi? Non è forse anche questo un problema culturale? Perché si punta per forza sulla famiglia, invece di ipotizzare una lotta che ci conduca al riconoscimento delle persone come soggetti di diritto? Forse la visibilità passa anche attraverso qualcosa di meno eclatante di un gay pride. Forse un fermo e deciso porsi in essere, rivendicando la propria essenza, creerebbe più mutamenti a livello culturale. Insegnare che c'è un altro modo possibile di esistere, un modo che tenga nel dovuto rispetto le singole entità. Non abbiamo nessuna voglia di rivendicare qualcosa che ci porti dove noi non ci siamo mai riconosciute. Vogliamo poter essere quelle che siamo e rivendichiamo il nostro diritto di essere noi stesse senza dare origine ad una brutta copia di un qualcosa che sicuramente ci renderebbe sì socialmente più accettabili, ma negherebbe, e questo è sicuro, la nostra natura ed il nostro essere. Concludo questo mio intervento dedicandovi una canzone. Una canzone a tutte le donne che spero trovino la forza di scoprire la propria forza, trovino il coraggio di manifestare il proprio coraggio. Il titolo è Apri la bocca e fai fuoco, Fiorella Mannoia. Avvertono che questo è l'istante di spaccarsi le mani anche se si abituano a guardare nel sangue di chi non si risparmia e cerca il sole anche dove non c'è. Apri la bocca e fai fuoco, brucia la calma che hai. Apri la bocca e dai fiato, usa la forza che hai. Fai male, il male torna, qui lo sanno e nessuno lo fa. Non ti stupire di chi ride beato di sé, se anche il naso ti si abitua a sentire l'odore che c'è. E allora sono le 21 e quasi 45 minuti, quindi non ci resta moltissimo spazio. E vi ricordiamo naturalmente che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane naturalmente, sugli 87-900 di Radio Onda Rossa. E se volete contattarci, scriverci, mandarci delle idee, dei contributi, potete farlo al nostro indirizzo di posta elettronica, contatti@clrbp.it, oppure potete contattarci presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B e il telefono è 06 68 64 201. Benissimo, a questo punto non ci lasciate, non tirate un sospiro di sollievo perché la trasmissione non è finita, non è finita ancora. E rimarremo con voi ancora per un quarto d'ora e allora per adesso ciao a tutte. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87-900 di Radio Onda Rossa. I really do believe it. Something's got a hold on me here. E non ve ne andate, vi dedico un'altra canzone. Io e Rosina siamo ancora qui. Non ci risulta che abbiate fatto poi tutti questi trillini, eh? Vi tiro un po' le orecchie. Comunque, a causa tua, because of you. Because of you, you, you, I smoke all day. Because of you, you, you, I drink my blues away. Because of you, you, you, I can't sleep at night. Because of... Queste sono le Sapphire. What should I do, do, do, do, do, do, do? Vabbè, i trillini non ce li avete fatti perché vogliamo sperare voi ci stiate ascoltando via internet, quindi va bene, speriamo così. Non ci avete fatti i trillini, però venite con noi a vedere giovedì il cinema, il film di Liliana Cavani, Interno Berlinese, che verrà proiettato nella rassegna Les Bollywood questo giovedì. Vi aspettiamo, vi aspettiamo, vi aspettiamo. Io spero che questa canzone vi sia piaciuta. Praticamente con Rosina abbiamo guardato il pacco enorme di fogli che ci siamo portate e ci siamo rese conto che non abbiamo mandato la musica lesbica indipendente, non abbiamo dato gli appuntamenti, abbiamo chiacchierato tantissimo. Quindi proprio perché abbiamo chiacchierato tantissimo vogliamo farci perdonare, mandiamo... Più bella che canzone. Altro, sì, dai, una musica. Sì, è una vecchia, datata. Senti, ma io ti devo fare una domanda, però mi devi rispondere sinceramente, Rosina. Con tutta la sincerità grazie, possibile. Ma dopo tutte le cose che ci siamo dette in questa trasmissione, allora non mi sposi più? Naturalmente sì. Grazie. Che mandiamo adesso? Adesso mandiamo No More Love Is... Madonna, con quella voce, no, non puoi fare così, Rosina. Buona, buona che siamo in diretta. Già, è vero, scusa, ci arrestano, va bene. Annie Lennox. Voi non ci crederete, ma abbiamo una gradita ospite che ci illustrerà quello che farà fra circa 10 minuti alla nostra andata fuori da questi studi. Che farai, Leila? Allora, io del tutto sperimentale sono qui con il coordinamento da speaker romane. È un piacere per me, ovviamente. Grazie. E io, tanto per cambiare, leggerò l'ultimo, giuro, è l'ultimo, perché poi sono finito, è finito il libro, l'ultimo saggio del libro di Arundhati Roy, che è l'autrice del Dio delle piccole cose, un romanzo famosissimo. E il libro in questione l'ho detto apposta. Hai detto apposta. Il libro è Guerra e Pace, è una raccolta di saggi, è un libro molto bello, ma ne sapete ormai tutto, quindi così vi rimando a tra 10 minuti con la lettura. Va bene. Allora ringraziamo Leila per il suo contributo spontaneo. Del tutto spontaneo. Del tutto spontaneo. Gli ultimi 5 minuti che abbiamo a disposizione, che come promesso stiamo riempiendo con della buona musica, il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. Caterina e Rosina vi salutano, vi abbracciano, anche se non ci avete fatto trillini, mannaggia. Niente, vi lasciamo in compagnia di Sheryl Crow con il brano Keep on Growing. Growing, scusate.